edizione. Prontissimi a cominciare questo mercoledì. Allora, se prima delle 6 vi abbiamo fatto ascoltare la musica del concertone fino a tarda sera a Piazza San Giovanni per il 1° maggio, ripartiamo con prima edizione con altra musica. Magari non adattissima a quest'ora, però la notizia c'è, perché erano girati i nomi di ogni genere alla fine per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi londinese. Il dado è tratto. A suonare alla cerimonia di apertura saranno i Controversi, i Taceriani, anni 80, li sentite, Duran. Saranno accompagnati da altri artisti, ognuno in rappresentanza di una nazione britannica, inglesi Duran, gli Snow Patrol suoneranno per l'Irlanda del Nord, gli Stereophonics per il Galles, per la Scozia ci sarà anche un po' d'Italia con il nipote dei proprietari toscani di un negozio di fish and chips a Glasgow, Paolo Nutini. E questa dovrebbe essere la musica che aprirà, anzi sarà, perché è arrivata ieri sera l'annuncio, la musica che aprirà le Olimpiadi londinesi. Prima edizione. Eccoci ancora qui. Allora, lo sapete, oggi i quotidiani in edicola non ci sono perché il 2 maggio non escono. Ieri i quotidiani e le redazioni dei quotidiani erano chiuse, non lo eravamo noi di Radio 24, ci avete sentito, e non lo erano e non lo sono nemmeno i siti online. E allora noi andiamo a guardare questa mattina quali sono le scelte dei siti, che ovviamente seguono delle logiche un po' diverse da quelle dei quotidiani, ma che comunque un'idea ce la danno anche delle ultime notizie. Alcuni aggiornati, altri meno. Una carrellata. Cominciamo col dire che già Repubblica e il Corriere, che fino a poco fa titolavano sul 1° maggio, la loro apertura hanno deciso di cambiarla con la notizia di questa mattina, vale a dire il viaggio in Afghanistan del presidente americano Obama, ad un anno esatto dal blitz che portò alla morte di Osama Bin Laden. La Repubblica online titola così: Obama sorpresa in Afghanistan, i talebani attaccano Kabul. Il Corriere della Sera: Obama vola a sorpresa a Kabul, gli Stati Uniti altri 10 anni in Afghanistan. E allora, Corriere della Sera, un anno esatto dalla morte di Bin Laden, missione, dicevamo, del presidente americano nel segreto più assoluto per un accordo con Karzai per le relazioni civili e militari tra i due paesi dopo il ritiro delle truppe americane che avverrà nel 2014. Sono giorni difficili, ma il popolo afghano si sta riprendendo per il futuro, così leggiamo dal Corriere della Sera. La Repubblica sceglie in questo caso altre citazioni: abbiamo fatto giustizia, non è finita, ma vediamo la luce, vediamo l'alba. Subito dopo la partenza del presidente americano, 3 esplosioni, una sparatoria nella capitale, almeno 6 morti, ve l'abbiamo fatto ascoltare anche noi. La Repubblica e il Corriere scelgono poi, almeno le edizioni online, dicevamo, come seconda notizia temi diversi. La Repubblica punta sul 1° maggio, Napolitano, lavoro per i giovani, la Camusso, altri tecnici, è stravagante, speranza, passione e futuro, 1° maggio in musica, così la Repubblica. Il Corriere della Sera punta invece su un'altra notizia: Bossi, mi ricandido alla segreteria, al comizio Lega Unita, il senatur pronto a tornare in sella. Più in basso troverete invece il 1° maggio sul sito del Corriere della Sera, che riporta anche un video del 1° maggio pre-elettorale francese, lasciate la bandiera rossa, le parole di Sarkozy ieri al Trocadero. E a proposito invece di Francia, dal sito della Repubblica l'altra notizia politica che è arrivata ieri dalla Francia con il 1° maggio, gli appelli elettorali, e Marine Le Pen che dice: voterò scheda bianca. La leader del Fronte Nazionale celebra Giovanna d'Arco, ma soprattutto dà le indicazioni per il secondo turno, nega il suo appoggio a entrambi i candidati al ballottaggio, e questo naturalmente peserà. Altre aperture dei siti di questa mattina: La Stampa, ancora l'apertura la lascia sui temi dedicati al lavoro, lavoro per i giovani, il concertone in piazza ieri sera, il 1° maggio ad alta tensione con la battaglia in centro a Torino e il blitz sul balcone del comune, La Stampa ovviamente quotidiano torinese, e poi anche qui riporta voto a sorpresa di Obama in Afghanistan. Il Messaggero, anche qui Napolitano, lavoro per i giovani, Fornero, non è un bel 1° maggio, folla al concertone di San Giovanni, speranza, passione e futuro. Gli organizzatori siamo 750.000, le cifre come sapete come sempre sono diverse. E poi attenzione anche allo sport per il Messaggero: Chievo-Roma 0-0, l'Europa scappa scappa anche la pioggia contro Luis Enrique. Qualche segnalazione anche dai siti ve la faccio, al di là di queste notizie. Una notizia dal sito della Repubblica: Facebook vuole salvare vite umane, una funzione per donare gli organi. Ebbene, Mark Zuckerberg ha presentato una nuova opzione sul social network che permetterà agli utenti di accedere al registro delle donazioni e condividere la scelta con i propri amici, sperando che l'esempio faccia aumentare il numero dei donatori. Una novità sicuramente per Facebook. E poi ancora altre segnalazioni: il sito del Sole 24 Ore, ecco cosa può fare e non fare Bondi per tagliare davvero la spesa pubblica. Risparmi annunciati, lo sapete, per 4,2 miliardi. Ebbene, il risanatore di Parmalat, scrive il Sole 24 Ore, potrà revocare le procedure che determinano un dispendio inutile di risorse, obbligare le pubbliche amministrazioni a motivare gli acquisti. E ancora qualche approfondimento sempre sul sito del Sole 24 Ore per quanto riguarda il lavoro. Il primo maggio, un reportage da Termini Imerese, dopo Fiat, dove gli operai vanno in chiesa per scioperare. Quella che si prospetta per i cittadini di quest'area e per quella di Termini in particolare è una fase segnata da timori e paure con il futuro e con Dottor Motor. Così scrive il sito del Sole 24 Ore, che ci riporta anche altri dati da un'altra parte del mondo. Dall'Asia: c'è crisi in Cina, scrive il sito del Sole 24 Ore. A Pechino rallenta non solo il PIL, anche il gettito fiscale è dimezzato. Ombre cinesi contabili e ore fiscali sull'economia di un paese, la Cina, leggiamo ancora dal sito del Sole 24 Ore, che sembra aver schivato l'impatto più deciso impresso dalla recessione globale sui mercati. Ma dicevamo, la notizia politica che un po' tutti riportano, un po' tutti i siti, è Bossi che annuncia: mi ricandido alla segreteria. E allora, questa mattina vi facciamo anche sentire gli umori ieri proprio della manifestazione a Zanica del Bergamasco, perché li ha raccolti per noi la nostra Maria Luisa Pezzali. La rivolta fiscale non è solo una questione economica, ma specialmente perché ne siamo oppressi da decenni. Sicuramente non è una cosa campata in aria, ma bisogna valutare questa idea. Non si possono mettere nei guai i cittadini, adesso vediamo. Siamo qui perché noi, quando c'è da stare assieme, stiamo tutti uniti e tutti assieme. Siamo qui a dimostrare che il popolo padano non si sta sfaldando come vorrebbero far credere. Questa è la nostra gente, è il nostro modo di stare al mondo. La Lega è unita? Unitissima, più di prima. La rivolta fiscale cosa significa per lei? Non pagare meno tasse, perché così proprio ci sbollettano. Manda a casa il Monti che è una osteria, ma se fa osta, andiamo avanti sì. Ci può pagare un casino di soldi, perché cosa? Per niente. Quindi l'IMU non si paga? Niente da fare, non si paga. Spero che possa succedere di non pagarla, assolutamente. Speriamo. Volete Maroni segretario? Decideranno loro, per me va bene tutti e due. Sì, uno che l'altro mi va bene. Dopo gli scandali la Lega è unita, è ancora unita? Io di scandali non ne ho visto neanche uno. La Lega non ha rubato niente, nessuno. I soldi sottratti dalle casse del partito? È un problema della Lega. La Lega non ha rubato niente a nessuno. È un problema della Lega. Tanto è vero che le scope, le ramate, le seghe elettriche a mano stanno funzionando. Che cosa pensa di quello che è successo? Niente, perché purtroppo non è che gli altri partiti possono alzare tanto la voce. Per cui spero nella pulizia che ricominci tutto da capo, come i vecchi tempi. Bossi è ancora applaudito. Sempre l'unico. E grazie alla nostra Maria Luisa Pezzali, che ieri era Zanica nel Bergamasco. Veniamo allora però ancora alla notizia invece di queste ore. Vediamo l'Alba, così nella notte italiana ha parlato dall'Afghanistan il presidente americano Obama. Allora, vabbè, ve lo faremo risentire. Comunque abbiamo tempo nel corso della mattinata anche con la nostra Valeria De Rosa per farvi risentire ancora il presidente Obama. È stato un lungo discorso il suo, una visita a sorpresa. E allora, per raccontarvela, un po' di rassegna stampa dai siti stranieri questa mattina. E allora, New York Times: Obama firma un patto a Kabul, girare pagina per la guerra in Afghanistan, dice il presidente Obama parlando a un pubblico televisivo americano da una base aerea a Kabul. Ha detto di essersi recato

cittadini non iscritti ai partiti. La crisi di credibilità della politica si supera con la serietà dei comportamenti dei politici. Il problema delle liste civiche e civetta, seppur sentito, non spaventa i grillini, gli appartenenti cioè al Movimento 5 Stelle, nato sotto la guida di Beppe Grillo. I grillini sono ormai conosciuti sul territorio, si muovono lenti, ma sembrano riscuotere sempre più apprezzamenti tra la gente. L'impegno è stato totalizzante, ci ha raccontato Beppe Grillo. Faccio politica vera, bella, entusiasmante, l'ho fatta col camper, andare in giro a farmi piace, a presentare questi ragazzi. Io sto rinascendo, ma come umanamente. Questo è un movimento di proposte. Hanno detto che noi andiamo a fanculo, siamo gli antipolitica, ma noi abbiamo fatto le proposte, quei videi c'erano delle proposte di cui parlano adesso questi insignificanti personaggi. Insomma, noi abbiamo fatto delle proposte e ci hanno detto che eravamo l'antipolitica. Cioè, la cosa che non si riesce non riesco a far capire è che siete di fronte a qualcosa di nuovo. Cioè, non ci sono partiti cattivi, buoni e cattivi, non ci sono più i partiti, è una struttura vecchia. Era Italia in Controluce, la prima puntata per quest'oggi 2 maggio 2012. Torniamo oggi alle 13.30 con nuove storie, nuove inchieste, nuovi reportage su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi, vi ricordo naturalmente questa settimana gli appuntamenti con Italia in Controluce anche per noi saranno dedicati alle prossime elezioni amministrative, domani un'altra puntata. 6:37 minuti nel frattempo, ancora ben svegliati da Anna Migliorati perché siamo alla seconda parte di Prima Edizione. E allora, con speranza, passione e futuro, questo era lo slogan, fino a tarda notte si è cantato e si è ballato in Piazza San Giovanni a Roma per il concertone del 1 maggio. La musica a chiudere il 1 maggio, 700.000 secondo alcune fonti, 400.000 secondo altri, comunque non è questo il concetto. Fatto sta che il concertone c'è stato, c'è saltato solo perché un problema diplomatico, limitazione del governatore del Lazio Polverini. La musica però c'è stata, ce n'è stata tanta, ma dovrebbe essere questa l'occasione, la piazza anche per parlare di lavoro. E allora il nostro Vincenzo Miglietta ha chiesto ai ragazzi che erano in piazza che ne pensano proprio del lavoro, lavoro che per molti di loro non c'è. Sono di Piacenza, sono qua per la festa, ovviamente. Senti, il problema del lavoro secondo te è più di quantità, cioè manca il lavoro, o di qualità, che il lavoro che viene offerto ai giovani è di basso livello? Ma no, secondo me è un problema di quantità a questo punto, perché poi i livelli sono quelli, cioè se c'è bisogno di fare un lavoro la gente fa quel lavoro lì, però se ne manca il lavoro la gente non lo fa. C'è per forza, non c'è. Quello che sogni avete, di continuare a studiare oppure andare subito a lavorare? No, a studiare. Secondo lei lo studio, ecco, è sempre il mezzo per arrivare a un lavoro? Assolutamente, anche cioè, nonostante la crisi, secondo me non bisogna mai accontentarsi, e comunque è sempre meglio studiare. Lei dice, avendo poi un titolo di studio è più facile? Insomma... Non ne sono così certa, però è sempre meglio. Tu che hai un lavoro, che quindi hai fatto comunque un tuo percorso, che cosa ti senti di consigliare a chi lo sta cercando un lavoro? Di accettare tutto quello che trova, di avere un sogno? Allora, io penso che sia pieno di laureati a spasso, pieno. Quindi un pezzo di carta prima di tutto. Però magari per chi sceglie delle professioni specifiche c'è il posto. C'è, però bisogna anche rimboccarsi le maniche. Non lo so, io studio anche perché mi interessa l'argomento, quindi non ci ho mai pensato seriamente. Però penso che il titolo di studio è comunque un passo in più, ecco. Purtroppo è valutato relativamente poco. Vabbè. Si dice tanto che questi giovani di adesso aspettano un po' che il lavoro gli arrivi da fuori. Voi che dite? Vi date da fare? No, certamente che no, però è vero che, ma penso che non sia solo di noi giovani, ma anche da parte di un po' tutto il popolo italiano, che c'è una mancanza di ideali proprio. per la lotta a qualsiasi cosa del nostro diritto, questo sì, ma non è solo da parte di noi giovani, comunque già la generazione che forse ci ha preceduto non ci ha trasmesso questo tipo di ideali. E il dibattito è andato avanti così, speriamo, nella piazza ieri sera della musica del concertone del primo maggio. Primo maggio dove non sono mancate le tensioni, contestato a Portella della Ginestra il segretario del PD Bersani, contestato al corteo del primo maggio a Torino il primo cittadino Piero Fassino da militanti del centro sociale a Scatassuno. Perché? Cosa c'era dietro tutto questo? Contestazioni legate a cosa? Il racconto, allora, proprio lo vogliamo da lo stesso Piero Fassino. È successo nulla di grave, è successo come tutti gli anni che c'è un gruppo che diciamo usa il 2 maggio, il primo maggio per manifestare diciamo le proprie ragioni di contestazione, poi che queste ragioni siano fondate o no dipende dalla valutazione di ognuno. Quest'anno il problema è la questione degli asili nido. È una questione che in realtà è chiara e semplice a capirsi. Il Comune di Torino è tra i comuni italiani che hanno la più alta offerta di asili nido e scuole materne. 83 scuole materne, 54 asili nido, tutti in gestione diretta. I tagli finanziari e blocco delle assunzioni non consentono di continuare ad avere tutti questi servizi in gestione diretta e quindi ci predisponiamo a dare 10 di queste strutture in concessione, sulla base di convenzionamento, come è stato fatto in tantissime altre città italiane, garantendo così a tutti i bambini che hanno oggi un posto in un asilo di scuola materna di continuare ad averlo, sia pure con modalità erogative diverse. Questa cosa non viene accettata da una frangia estremistica e la contesta. Tutto qui. Senta, ma voi sindaci non vi sentite un po' in prima linea di fronte a tutti i tagli? Noi siamo in prima linea. E difatti rivendichiamo che i tagli siano fatti con equilibrio e siano fatti secondo principi di equità. Talora non è così, come per esempio con un IMU che espone noi a mettere le tasse che i cittadini pagano sulle loro case e sequestra più del 50% di questo provento a favore dello Stato. Noi chiediamo che l'IMU sia lasciata ai comuni. Anche alcuni suoi colleghi in questi giorni ci hanno detto in realtà come sindaci non ci stanno ascoltando molto, è d'accordo? Ma io mi auguro che il governo ascolti i sindaci, anche perché i sindaci sono l'istituzione in prima linea, sono quelli a diretto contatto con i cittadini. Vede, quando un ministero taglia sul bilancio. Quando una regione fa un taglio, taglia sul bilancio. Quando un comune deve fare un taglio, taglia sulla vita dei cittadini. Questa è la differenza. Le contestazioni erano più per Piero Fassino, secondo lei, o per le politiche dei tagli del governo? Ma tutte e due le cose, evidentemente, ma ripeto, da parte di persone che diciamo esprimono un disagio senza porsi il problema di come dare una risposta concreta ai problemi che i tagli pongono. Io invece questa risposta concreta la sto costruendo e ci sarà, e ripeto, tutti i bambini che oggi hanno un posto in un asilo nido, una scuola materna a Torino, continueranno ad avercelo, cambieranno le modalità erogative di questo servizio, ma questo non fa venire meno il servizio a favore delle famiglie. Allora, il nostro stacco a chiudere, allora grazie, così le ragioni del sindaco di Torino Piero Fassino. Allora, la giornata, la serata, ieri sera del primo maggio, ve l'abbiamo raccontata. Allora, è il momento della viabilità e poi invece voltiamo pagina con la notizia di questa mattina e con il presidente americano Obama che è volato in Afghanistan. Prima edizione. Le 6:45 minuti, cosa è successo nella notte, come diciamo sempre nello spot di prima edizione, mentre l'Italia dormiva? È successo che il presidente americano Obama è volato in Afghanistan ad un anno esatto dal blitz che portò alla morte di Osama Bin Laden. Ha tenuto un lungo discorso su cui già si sprecano i commenti e allora noi vogliamo raccontarvelo questo discorso nella notte del presidente americano Obama. Ancora saluto Valeria De Rosa. Ben ritrovata Anna, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Un viaggio sorpresa, lo dicevamo poco fa, talmente a sorpresa che anche la Casa Bianca lo ha smentito fino a poche ore prima dell'arrivo di Obama in Afghanistan. Avevano capito qualcosa i media di Kabul, infatti la TV nazionale aveva dato la notizia e poi si erano affrettati a smentirla, addirittura la stessa presidenza afghana. Obama è volato in Afghanistan, lo dicevi qualche istante fa, un anno esatto dalla uccisione di Osama Bin Laden, e non si è fatta attendere la risposta del terrorismo. I talebani, subito dopo la ripartenza di Obama, hanno attaccato la città, un attentato suicida effettuato con un'autobomba che ha scosso il centro di Kabul appunto poco dopo la ripartenza del presidente. L'attacco è avvenuto sul Jalalabad Road, dove si trovano diverse basi militari straniere. L'attacco è stato poco dopo rivendicato e ha causato la morte di un agente di sicurezza e 5 passanti. Ma veniamo al viaggio, un viaggio appunto a sorpresa. Il presidente ha deciso di volare alla base militare di Bagram, da qui poi ha raggiunto in elicottero a Kabul il presidente afghano Hamid Karzai, e con lui Obama ha firmato un accordo di partenariato strategico che è una tappa diplomatica fondamentale. Perché? Perché gli americani verranno via dall'Afghanistan nel 2014, è previsto il ritiro delle truppe da combattimento alleate della NATO, dall'anno prossimo la responsabilità militare torna agli afghani, ma poi ci sarà bisogno di ricostruire il paese, ricostruirlo sia fisicamente ma anche per quel che riguarda tutte le istituzioni democratiche di questo paese. E poi sicuramente il momento culminante della giornata e dell'intero viaggio è stato il discorso in diretta TV alle 19:30 ora americana, quindi in prime time. Il presidente ha parlato alla nazione, sentiamo. But there's a light on the horizon because of the sacrifices you've made. Not only were we able to blunt the Taliban momentum. Abbiamo viaggiato un decennio attraverso le nubi scure della guerra e ora qui in Afghanistan, nel buio, prima dell'alba, possiamo vedere all'orizzonte la luce di un nuovo giorno, ha detto Obama. So che molta gente è stanca di questa guerra, ma dobbiamo finire il lavoro iniziato. Battere Al-Qaeda è un obiettivo alla nostra portata. Un messaggio prudente che però si è accompagnato anche ad un annuncio di grande effetto. Dopo un decennio di guerra all'estero è tempo di rilanciare l'America, un paese dove i nostri figli possano vivere senza paura e noi possiamo realizzare i loro sogni. E qui si scopre in modo pieno anche la valenza strategica di questo viaggio in chiave elettorale per Obama, quindi per la sua rielezione punta moltissimo ai suoi successi internazionali. Ed è tutto. Grazie allora a Valeria De Rosa. Così questa notte abbiamo cominciato anche noi a parlarvene col buio, nel frattempo la luce è arrivata anche qui a Milano. Continuiamo però ad occuparci di tutto questo, perché invece un anno fa, la mattina del 2 maggio, ci eravamo svegliati con la notizia della cattura di Osama Bin Laden. Nella notte il discorso di Obama, allora un anno dopo cosa è cambiato, cosa è successo? L'occasione per fare il punto anche su questo. Saluto anche Laura Bettini. Un anno fa, più o meno a quest'ora, sapevamo già quasi tutto. Bin Laden era stato individuato e ucciso in un raid dei corpi speciali della Marina americana, i Navy SEALs, in una località di nome Abbottabad, in Pakistan. Il suo corpo era stato trasportato su una portaerei e quindi sepolto nel Mar Arabico settentrionale, perché nessuno ne avrebbe ospitato le spoglie, dissero gli americani. I pakistani non sapevano nulla, né di Bin Laden sul loro territorio, né del raid, entrambe versioni ufficiali della prim'ora. Poi ci furono molte ritrattazioni. Durante l'avvicinamento al compound di Bin Laden, un elicottero Black Hawk era precipitato senza conseguenze per i militari a bordo, che infatti avevano potuto portare a termine il raid. Ma era stato necessario distruggere il velivolo per non lasciare un'apparecchiatura top secret nelle mani di potenziali nemici. Nessuna perdita tra i Navy SEALs, 5 vittime tra i nemici, Osama Bin Laden e altri 4, tra cui, si saprà poi, uno dei suoi figli. Che fosse successo qualcosa di grosso, molto grosso, si diceva già da ore a Washington, ma la conferma finale la diede il presidente degli Stati Uniti quando annunciò urbi e torbi che Bin Laden era stato ucciso. Feci questo annuncio solo quando seppi che tutti i nostri erano al sicuro, i militari e perfino il cane, ricorderò poi Obama. Sì, perché c'era anche un cane di nome Cairo, l'ottantesimo Navy Seals di Abbottabad. Non accendere la luce. Sarebbe stato questo l'ultimo ordine impartito da Bin Laden prima di morire, rivolto probabilmente a una delle mogli presenti. Nella Situation Room, intanto, la stanza di controllo remota a Washington, il presidente Obama fissava i monitor accigliato. Il segretario di Stato Clinton tratteneva l'ansia con la mano davanti alla bocca. Aspettavano il risultato dell'operazione, detto in codice. Geronimo, E-K-I-A. Geronimo è Bin Laden. E-K-I-A significa Enemy Killed in Action, nemico ucciso in azione. Aveva giocato il tutto per tutto Obama, dando il via a un'operazione che aveva meno del 50% di probabilità di riuscita, ma vinse. Su questa capacità di decisione e su quel successo, oggi il suo entourage gioca molto per la rielezione. Non è vero che Obama è inconcludente, come dicono i repubblicani, magari la crisi non è finita, la riforma sanitaria non è ancora un successo, ma ha detto in un recente comizio il vicepresidente Biden: Osama bin Laden is dead. And General Motors is alive. Bin Laden non c'è più, la General Motors sì. Anche Bill Clinton, che negli anni non ha fatto sconti a Barack Obama, su Abbottabad gli rende onore per aver preso una decisione difficile ed onorevole, dice. Took the harder and the more honorable path. A febbraio il compound di Bin Laden è stato raso al suolo e qualche giorno fa le tre mogli e gli 11 figli del leader di Al-Qaeda sono stati autorizzati a lasciare il Pakistan e tornare in Arabia Saudita, dove una folla di parenti di Bin Laden, che apparteneva a una delle più ricche dinastie del paese, li ha accolti. Ma se l'albero di Al-Qaeda è stato tagliato, le radici purtroppo sono ancora vive. Grazie a Laura Bettini e nella notte. Dicevamo la nuova svolta, allora continueremo a parlarne tra pochissimo in GR24. Diego Rovelli, grazie nel frattempo in redazione, resta in regia Peter Bescapè. Da Anna Migliorati, buon mercoledì, a tra poco.